Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. And gaze at the moon till I lose my senses, and I can't look at hobbles, and I can't stand fences. Don't fence me in, no. Papa, don't you fence me in. Salve, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità riservando uno sguardo privilegiato agli animali non umani. È la puntata numero 618 e parleremo di mufloni messi in salvo, della complessa e affascinante figura del maiale, di politiche agricole che non cambiano abbastanza, di animali selvatici sotto pressione. Il nostro tosco vegan chef, nonché DJ, Gabriele Palloni, curerà questa settimana sia la ricetta sia la colonna sonora della puntata. There's gonna be a certain party at the station. Satin and lace. I used to call funny face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. Chattanooga, choo-choo. Won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga. Get aboard. Chattanooga, Chattanooga. All aboard. Chattanooga, Chattanooga. La brutta vicenda dei mufloni dell'Isola del Giglio sembra avviata verso il lieto fine. Dopo l'annuncio e l'avvio della eradicazione dei mufloni, cioè il loro sterminio affidato a cacciatori convocati ad hoc, il parco dell'arcipelago toscano si è deciso a fare marcia indietro, accogliendo le proposte arrivate da alcune delle associazioni che avevano contestato vivacemente la scelta. Il presidente del parco, Giampiero Sammuri, ha firmato nei giorni scorsi un accordo con WWF e LAV, rappresentate dai presidenti Donatella Bianchi e Gianluca Felicetti, impegnandosi a sospendere le operazioni di abbattimento dei mufloni previste dal progetto Let's Go Giglio e a intensificare le operazioni di cattura e trasporto in altre località con modalità che tengano conto del benessere animale, come previsto dal protocollo operativo sottoscritto con ISPRA. In base a questo accordo sarà anche formato un gruppo di lavoro, composto da esperti designati da Parco, WWF e LAV, per ricevere le disponibilità e stabilire entro 30 giorni le migliori destinazioni per gli animali. In questo quadro il parco dovrà assicurare per quanto possibile il confinamento preventivo dei mufloni in un'area adatta e sicura per il periodo necessario a organizzare il trasporto e dovrà anche disporre controlli coi carabinieri forestali per contrastare l'eventuale ingresso di specie selvatiche non autoctone sull'isola del Giglio. In sostanza si profila la cattura e il trasferimento altrove dei mufloni dell'isola, animali che erano finiti nel mirino in quanto considerati specie non autoctona è giudicata responsabile di danni alla biodiversità dell'isola, una scelta che a noi era già parsa poco motivata sul piano scientifico e del tutto irricevibile sul piano etico e che oggi sembra arrivare a un punto di svolta. Continueremo a seguire questa vicenda. Intanto registriamo questa buona notizia. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good, I'm feeling good, I'm feeling so good, I feel so good. Lo stesso WWF, che sottoscrive il patto per la salvezza dei mufloni del Giglio e ci rincuora, per un altro verso ci costringe a guardare la difficile condizione della vita animale sul pianeta senza troppi infingimenti e senza troppe illusioni. Lo fa riportando un bilancio sugli ultimi 10 anni di attività della IUCN, Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, secondo il quale in questo arco di tempo si sono estinte almeno 160 specie animali. Stiamo parlando dell'ultimo report pubblicato dal WWF sotto il titolo Estinzioni, non mandiamo il pianeta in rosso. Un rapporto che mostra come siamo nel pieno della sesta estinzione di massa, con un tasso di estinzione di specie vegetali e animali 1000 volte superiore a quello naturale. Su queste basi l'associazione ambientalista lancia il suo allarme e una campagna intitolata A Natale mettici il cuore, con la quale è possibile sostenere tutti i progetti del WWF a tutela della biodiversità, adottando o regalando l'adozione simbolica di un animale in pericolo. Tutte le informazioni su questo progetto si trovano sul sito del WWF Italia. Per lanciare questo progetto, il WWF racconta le storie di 13 animali letteralmente spariti dalla faccia della Terra. Ricordiamoli, sono il rinoceronte bianco settentrionale, sottospecie dichiarata estinta nel 2018, quando è morto l'ultimo esemplare rimasto detenuto in cattività. In passato il rinoceronte bianco settentrionale viveva in Sudan, Uganda, Repubblica Centroafricana, Repubblica Democratica del Congo. E poi la testuggine dell'isola di Pinta, che viveva nell'isola più settentrionale delle Galapagos e si è ufficialmente estinta nel 2012, quando morì l'ultimo individuo scoperto negli anni 70. Lo stambecco dei Pirenei, dichiarato ufficialmente estinto nel 2000, dopo aver subito nei secoli scorsi una caccia molto molto dura. La tigre di Giava, che viveva esclusivamente nell'isola, e dichiarata estinta nel 1979. L'alca in penne dell'Oceano Atlantico, una grande specie di uccello incapace di volare, diffusa nelle acque fredde del Nord Atlantico, vittima di una caccia dissennata per scopi alimentari e per il suo piumaggio. L'orso dell'Atlante, che viveva fino all'Ottocento in territori fra Tunisia, Marocco e Algeria, l'ultimo individuo morì nel 1867. Il quagga, una sottospecie di zebra, diffuso in Sudafrica fino a metà dell'Ottocento, estinto in natura nel 1878 a causa della caccia per la carne e le pelli. L'ultimo individuo in cattività morì allo zoo di Amsterdam nel 1883. Il rospo dorato, anfibio della foresta tropicale di aree montuose del Costa Rica, estinto nel 2004. Il lipote, un delfino d'acqua dolce diffuso nel fiume Azzurro in Cina, estinto nel 2006 a causa di pesca e inquinamento. La bettongia del deserto, piccolo marsupiale, non più osservato in natura dal 1933, viveva in Australia. Il pipistrello dell'isola di Natale, nell'Oceano Indiano, estinto nel 2017. La chiaola di Kauai, un uccello delle isole Hawaii, osservato per l'ultima volta nel 1969. Il tilacino, o tigre della Tasmania, un carnivoro marsupiale presente in Australia, Tasmania e Nuova Guinea, il cui ultimo individuo è deceduto nello zoo di Hobart nel 1936. La specie è stata dichiarata estinta nel 1982. Questo è il triste elenco di 13 animali simbolo ormai estinti, scelti dal WWF per sostenere la sua campagna di adozioni. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise. Oh, yeah. Promise to me you'll dream. Dream a little dream of me. Il nostro Francesco Panier nelle settimane scorse si è prodotto in una lettura coerente e concreta del summit COP26 di Glasgow, molto meno positivo di quanto si è detto nei grandi media. Gli abbiamo chiesto di occuparsi questa settimana della PAC, il grande piano europeo in materia di agricoltura, settore chiave anche per la condizione animale nella nostra società. Ci siamo chiesti tante volte come fare per riformare il sistema alimentare e spingerlo verso produzioni a base vegetale, non violente e in armonia con gli ecosistemi in cui le attività agricole trovano il loro posto. Una parte della risposta è certamente dentro di noi e ha a che fare con la forza che abbiamo per sottrarci a un sistema che sfrutta forme viventi umane e non umane per produrre il cibo che mettiamo in tavola. L'altra parte della risposta è invece fuori di noi ed è connessa con le decisioni che prendiamo come collettività sulla direzione da imprimere allo sviluppo dell'agricoltura. Purtroppo c'è ancora un forte disallineamento tra questi due piani. Mentre aumentano in Italia e in Europa il numero di persone che scelgono, per una ragione o per l'altra, un'alimentazione priva di prodotti animali, le istituzioni restano legate alle istanze delle lobby agricole e dell'industria alimentare, che difendono l'agricoltura industriale e l'allevamento intensivo. Il 23 novembre scorso abbiamo perso un'ottima occasione per dare una spallata a questi gruppi di interesse, perché il Parlamento europeo ha ratificato una pessima riforma della politica agricola comune, la cosiddetta PAC. La PAC è un importante programma europeo di sussidi pubblici per il settore agricolo che viene aggiornato ogni 7 anni e vale un terzo del bilancio dell'Unione. Si tratta di circa 400 miliardi che fino al 2027 verranno ora distribuiti secondo criteri discutibili. Gli agricoltori con terreni più grandi o gli allevatori con più animali rinchiusi nei loro capannoni riceveranno più sussidi, mentre ai piccoli andranno le briciole. La PAC è nata nel secondo dopoguerra con l'obiettivo di garantire la sicurezza alimentare del nostro continente, ma oggi è una delle cause principali dell'industrializzazione del settore agricolo, della concentrazione degli animali allevati e della scomparsa dei piccoli contadini. Nel tempo, le varie riforme settennali hanno provato a condizionare il pagamento di queste sovvenzioni all'adozione di pratiche più sostenibili, ma la vaghezza delle regole ha permesso un sostanziale mantenimento dello status quo. Le misure correttive non hanno funzionato. Secondo un rapporto della Corte dei Conti europea, i 100 miliardi destinati negli ultimi 7 anni attraverso la PAC per spingere l'agricoltura verso una riduzione dell'impatto ambientale non hanno prodotto effetti. Il recente voto del Parlamento europeo prolungherà quindi lo status quo fino alle porte del 2030. Ma la crescita dell'impatto ecologico dell'agricoltura non si può più ignorare. I movimenti per la giustizia climatica, insieme alle associazioni animaliste e ambientaliste, stanno chiedendo con forza un cambio di passo. È importante che l'antispecismo tenga conto di questo dibattito, per arricchirlo con una prospettiva capace di andare oltre i benefici climatici o economici di un cambiamento del sistema alimentare e abbracciando la sua dimensione di giustizia e solidarietà tra le diverse forme viventi. I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In the small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun and when the night is new. I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Luigi Lombardi Vallauri, filosofo, amico degli animali e collaboratore di Restiamo Animali, a lungo docente di filosofia del diritto all'Università di Firenze e alla Cattolica di Milano, prima di esserne messo fuori per, diciamo così, infedeltà alla linea, è anche un personale cultore della figura del maiale, animale bistrattato e misconosciuto, che merita invece rispetto e attenzione. Il professore ha letto per noi un singolare libro di Thomas Macho, Il maiale, pubblicato dall'editore Marsilio. Il maiale è un libro di altissimo pregio, sia sul piano scientifico che sul piano figurativo. Mi sta appassionando, mi rivela un protagonista, l'animale più vicino all'uomo. Ovviamente come cibo, un tedesco mangia 4 vini, 4 bovini e 46 maiali nella vita, l'umanità consuma 116 milioni di tonnellate di carne suina all'anno, ma soprattutto è vicino come icona simbolica millenaria. Il leitmotiv, la sintesi del libro, è che il maiale è troppo simile e insieme troppo diverso da noi. Questa ambivalenza, questa ambiguità porta a una rimozione perché impone un ritratto spesso imbarazzante dell'animo umano. La prima parte del libro è un magistrale, dettagliatissimo panorama storico dei rapporti antropologico-culturali tra le civiltà umane di tutti i secoli di tutta la Terra e le variissime razze suine, dal mitico, eroico cinghiale pre-neolitico all'odierna massa di carne anonima degli allevamenti intensivi e dei macelli industriali. Per limitarci al cristianesimo, si va dalla demonizzazione del porco immondo al rispetto religioso e civile del maiale di Sant'Antonio. Le illustrazioni pittoriche di questa prima parte sono magnifiche. La seconda parte del libro offre 14 ritratti scientifici e pittorici della sorprendente, fantasiosa, quasi fantastica varietà delle razze suine. Forme, colori, pesi dai 350 ai 60 kg, ubicazioni in tutti gli ambienti della terra, comportamenti selvatici, rustici, domestici. Ci sono anche i maiali e maialini da compagnia. Per esempio il minuscolo Max, che viveva nella villa hollywoodiana del suo affezionatissimo George Clooney. Il libro trabocca di informazioni imperdibili. Leggendolo uno si dice, ma come faccio a essere così ignorante? E il libro spiega anche questa ignoranza. Il maiale oggi è reso invisibile da quel mostro di crudeltà accuratamente celata che è l'industria della carne. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near. In spite of a warning voice comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. La ricetta di Gabriele Palloni, come ogni settimana, è legata a uno dei temi trattati nella puntata. Sentiamo che cosa si è inventato il nostro chef, autore, vi ricordiamo, del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Questa settimana pedalo sulla scia del professor Vallauri e anche la mia ricetta sarà dedicata ai maiali, trasformando le più violente salsicce in salcecicce. Gli ingredienti per 4 persone sono 300 g di patate, 40 g di amido di mais, 80 g di farina di ceci, 20 g di concentrato di pomodoro, 100 ml di acqua, uno spicchio di aglio, un cucchiaino di zucchero di canna, un cucchiaino di paprika affumicata, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un cucchiaino di semi di finocchio, pepe in grani e sale. Iniziate lessando le patate, quindi sbucciatele, passatele allo schiacciapatate e lasciatele raffreddare. A parte, in un mixer aggiungete l'acqua, il concentrato di pomodoro, l'aglio, un cucchiaio di olio extravergine, la farina di ceci, l'amido di mais, lo zucchero, la paprika e frullate il tutto. Mescolando, impastate la parte liquida con le patate schiacciate. Aggiungete il pepe nero in grani e i semi di finocchio e aggiustate di sale. Versate il composto in fogli di carta forno spennellati di olio e cercate di arrotolarli chiudendoli a caramella. Fate attenzione perché l'impasto risulterà abbastanza liquido. sistemate le salsicce in una teglia e fate cuocere in forno a 160 gradi per circa 40 minuti. Togliete dal forno e lasciate raffreddare. Potrete servirle grigliate o stufate, accompagnate da verza, polenta, fagioli o anche in un bel panino con abbondante senape. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. Chiudiamo con una notizia che riporta a una piccola, preziosa tradizione napoletana, il caffè sospeso. Il progetto è della LAV, si chiama La Visita Veterinaria Sospesa e punta a raccogliere fondi da mettere a disposizione di cani e gatti che vivono con famiglie in difficoltà economica, di gatti di colonie feline e di cani liberi sul territorio. Le donazioni sono raccolte al numero 45587 e con un SMS, una chiamata da rete fissa, è possibile donare 2, 5 o 10 euro. Si pagheranno quindi le visite veterinarie per animali i cui accompagnatori umani non sono nelle condizioni di poterle pagare. Il cantante Tiziano Ferro, che già in passato si era distinto per cospicue donazioni a canili, ha dato la sua voce alla campagna di lancio del progetto. D'altra parte la povertà è sempre più diffusa in Italia, anche per effetto della pandemia, e ha inevitabilmente messo in ulteriore difficoltà le famiglie più svantaggiate, penalizzando fatalmente i loro animali domestici. La visita veterinaria sospesa può essere una forma d'aiuto preziosa. Cause I've got you under my skin. And I love you. Under my skin. Per questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gabriele Palloni, Francesco Panier, Anna Granata, Gianluca Masala e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.